America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. A new plot twist in the surveillance saga consuming Congress and the White House. The latest bombshell coming from Congressman Devin Nunes. Beh, ieri vi ho parlato del problema dell'inchiesta sui rapporti fra l'amministrazione Trump e la Russia, sia nel contesto preelettorale, sia subito dopo le elezioni. Beh, l'argomento continua ad essere assolutamente centrale. Ieri abbiamo avuto una notizia, l'avete sentito dal newscaster televisivo che vi ho fatto ascoltare. Il deputato David Nunes della California, che è il presidente della commissione intelligence della Camera, ha avuto dei rapporti, come dire, troppo vicini con due funzionari della Casa Bianca. Questo problema era già emerso sul piano teorico un po' di giorni fa. A questo punto ci sono i nomi e si è capito che cosa è successo. I nomi sono Ezra Cohen Watnick, che è un, diciamo, responsabile per i servizi di intelligence al National Security Council. L'altro è Michael Ellis, che è un avvocato che lavora sempre su questioni per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca e che aveva lavorato in ambienti, diciamo, di intelligence in passato, molto vicino comunque a uomini del presidente Trump. Questi due in particolare erano molto vicini, soprattutto con Watnick, a Michael Flynn. Michael Flynn era un po' il punto di riferimento centrale nello scandalo russo, perché vi ricordate, andò a Mosca, partecipò a una cena, era seduto vicino a Vladimir Putin, era il teorico del recupero del rapporto con Mosca. Ecco, questa cosa è molto imbarazzante sia per la Casa Bianca sia per Devin Nunes. Ci sono già una gran quantità di democratici che chiedono le sue dimissioni. Perché? Perché lui non ha lavorato comportandosi come si è comportato nell'interesse della commissione, del Parlamento o comunque dell'inchiesta, ma è andato ad ascoltare il parere di uomini vicini a Trump. Sono stati questi signori che gli hanno dato dei documenti, non si sa quanto veri o falsi, che in qualche modo confermavano l'idea che Trump potesse essere stato spiato dalle agenzie di intelligence americana, cosa che, come sappiamo, è stata smentita dall'FBI e da varie altre agenzie. Eppure, come dire, David Nunes ha cercato di dare credito a questa tesi della Casa Bianca. È uno scandalo nello scandalo. Voi potete dire, ma insomma, questa ci sembra un dettaglio. Non è un dettaglio, è un tassello in più che crea dei problemi alla credibilità dell'amministrazione Trump nel contesto dei rapporti con la Russia e soprattutto nel contesto di aiutare o fuorviare le inchieste del Parlamento. You know, when you look at buildings, what I realize is that, you know, a building can only be as good as the bones of the building. And those buildings just had a phenomenal bone with the interconnected skyways. Ecco, Jared Kushner, un personaggio straordinariamente interessante, è il genero di Donald Trump, e emergono dettagli su alcuni affari che ha condotto, sembra, in modo un po', come dire, superficiale, soprattutto affari legati a un palazzo molto prestigioso sulla Fifth Avenue, al numero 666 della Quinta Strada. Questo palazzo è stato pagato da Jared Kushner una cifra spropositata, si è trovato indebitato, a un certo punto il mercato immobiliare ha avuto un momento di crisi e ci sono stati appunto dei problemi di cassa. Cosa ha fatto Jared Kushner? Aveva acquistato un giornale che si chiama The New York Observer, che è un settimanale, e attraverso questo giornale è emerso che ricattava alcuni potenziali partner che gli avevano dato dei soldi, dicendo che se non avessero fatto uno sconto sul prestito che gli aveva dato, avrebbero avuto delle storie molto negative su questo giornale. President Trump turns away from Russia to focus on the environment and jobs. He will sign an executive order erasing many of former President Obama's climate change regulations. Una delle storie che mi ha interessato di più questa settimana è quella che riguarda l'ordine esecutivo di Donald Trump per abolire quel complesso di regole che erano state introdotte da Barack Obama per proteggere l'ambiente. Ecco, faccio una premessa: sono in molti a credere che la protezione dell'ambiente e la lotta alle emissioni nocive faccia male all'economia. Ecco, non è così, attenzione, non è così. Comunque questo lo vediamo dopo. Quello che conta è che di questa idea, protezione dell'ambiente uguale danno economico, di questa idea ne sia convinto il personaggio che oggi è più influente, importante, potente sulla scena americana e mondiale, cioè Donald Trump. il presidente americano aveva già fatto in campagna elettorale della causa per eliminare regole, lacci, lacciuoli ambientali, un vessillo della sua campagna. E dunque qualche giorno fa, devo dire, su questo è molto coerente Donald Trump, ha mantenuto la promessa, ha abolito le riforme ambientali che erano state introdotte da Barack Obama e che imponevano alle aziende di rispettare certe regole elementari anti-inquinamento. Ecco, attenzione, perché Trump tra l'altro è bravissimo a far vedere che lui fa delle cose quando in realtà magari quelle cose in qualche modo erano già state fatte, oppure l'impatto della sua azione è secondario. Perché? Perché molte delle nuove regole proposte da Barack Obama non hanno avuto un vero e proprio impatto. Una gran quantità di aziende hanno fatto causa per bloccare ora questa, ora quella regola, e le cause anche in America possono trascinarsi e dunque finiscono per impantanare una proposta di legge o comunque l'introduzione di nuove regole, ed è proprio quello che è successo. Tra l'altro, queste proposte di Obama andavano a riflettere i principi sottoscritti dagli accordi di Parigi. Allora, il punto è questo: una cosa è impantanare un progetto che poi a un certo punto potrà riprendere quota, no? Come è successo durante gli anni di Obama. Un'altra cosa è abolirlo, come ha fatto Donald Trump, e su questo io sono convinto che si fa un passo indietro. Certo, Donald Trump l'aveva detto anche in campagna, diceva: sapete cosa mi dicono le aziende? Togliete le regole e noi assumeremo. Questo principio non è automatico. Vediamo perché. Uno dei gruppi che più di altri si aspettava un aiuto da Trump è quello formato dall'agglomerato di minatori di carbone delle montagne degli Appalachi, di quei lavoratori che lavoravano nelle fornaci delle acciaierie usando magari il carbone. Insomma, le storie soprattutto dei minatori degli Appalachi sono leggendari, il loro lavoro tramandato di generazione in generazione, e poi improvvisamente i requisiti sulle emissioni hanno messo il carbone fuori gioco. Inquinava troppo. Le macchine per depurare i gas nocivi emessi dal carbone erano troppo care. E dunque Trump cosa ha fatto? Con questo suo ordine esecutivo ha mantenuto la promessa, ha tolto i limiti imposti all'emissione di carbone. Problema risolto? Niente affatto, e per una ragione molto semplice. Oggi il costo di estrazione del carbone non è competitivo, lo stesso vale per altri settori, e dunque non ci saranno nuovi assunti o i minatori del carbone che torneranno ad estrarre, perché non c'è mercato. E dunque una promessa che difficilmente si traduce in un risultato. E allo stesso tempo cosa succede? Che viene affossato invece un settore in crescita, cioè quel settore ad alto valore aggiunto che lavorava su tecnologie pulite, e soprattutto l'America perde quel suo ruolo di leader per le riforme ambientali che aveva sempre avuto nel mondo, cedendo il passo a chi? Beh, fra tutti, proprio alla Cina. La morale? Beh, è con questo esempio che vediamo in concreto tutti i limiti del populismo, perché è facile promettere, è ancora più facile naturalmente far sognare, in quanto poi a far sì che la promessa si traduca in un posto di lavoro concreto, beh, quella è un'altra storia, e non credo che Donald Trump, quando incontrerà i minatori, troverà qualcuno pronto a ringraziarlo perché ha recuperato il posto di lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di queste zone della vecchia industria, l'industria del carbone, delle acciaierie, delle fornaci. E dunque, beh, non posso che dedicare una grande canzone di Bruce Springsteen a tutte queste persone che speravano di trovare in Trump la persona che gli avrebbe restituito i posti di lavoro e che probabilmente invece non ci riuscirà. Di Bruce Springsteen, Youngstown. Here in Northeast Ohio, back in 1803, well, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace, yeah, here along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, as we get up, sinking down, here, darling, in Youngstown. My daddy worked the furnaces, he kept them hotter in hell. I come home from nine, work my way to Scarborough, job that suit the devil as well. They attack and I coke and limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God, to a beautiful sky of silver clay. Here in Youngstown, here in Youngstown. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!